Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Oh, no, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Eccoci qua. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo qui con la enormissima seconda puntata di Nervature. Eccoci, eccoci. E siamo in tante, no? Siamo Addu, Zazzi, e poi? E poi Panu. Ok, e quindi oggi cercheremo di nuovo, come l'altra volta, no? Ci avete sentito lo scorso lunedì, sempre a quest'ora, sicuramente ci avete sentito e ci sentirete anche i prossimi. Comunque vi terremo compagnia per almeno, direi, un'ora e mezzo e niente, parleremo di un po' di cose varie. Sì, abbastanza in realtà, quindi cercheremo di starci. Sì, di dividere la puntata in due parti e la prima vi manderemo poi un video che ovviamente voi sentirete solo l'audio, ma vabbè. E quindi niente, è in inglese però è scandito molto bene, quindi si dovrebbe capire. Comunque poi tanto noi dopo lo commentiamo. Lo commenteremo. Lo commentiamo. Esatto, quindi cercheremo di darvi qualche nozione, insomma, su un po' di argomenti che vengono citati nel video. Sì, esattamente questo. Però ricordiamo dove siamo adesso. Siamo su Radio Wombat, il sito è radiowombat.net e quindi sicuramente adesso state sentendo lo streaming, quindi sapete già come si fa, no? Ve lo ridico, si fa, niente, streaming è facile, o c'è il tastone giallo diretta, e se pigiate lì tra l'altro c'è anche il link per accedere al pad su cui potete scrivere e cercheremo di ogni tanto leggere e rispondere, ci si prova. E quindi c'erano altri contatti? Iniziamo. Ma se volete mandarci una mail potete farlo a postawombat@insiberia.net. Adesso provvederemo ad aprirlo. ma scriveteci sul pad. Sì, il pad. Comunque, è più bello. Vabbè, scusate per questa intrusione. Io sono contento di essere qua a farvi questo ausilio tecnico. Esatto, è fondamentale, ve lo giuro. E viva, viva. No, è bello sentire nuove voci sul Wombat. Sempre bello. Sì. Grazie. Quindi iniziamo mandando l'audio del video. Perfetto, vai. Speriamo che vi piaccia. Welcome to Tridom's special Christmas event 2021, an event that is destined to change people's life forever. As you know, Tridom has always focused on creating products and experiences for people to feel more connected to the world around them. But this time, we want to surprise you like never before. Today, we will introduce you to our greatest high-tech innovation, which is going to reshape your lifestyles forever. Introducing Alboro. microengineers has developed an innovative biotech processor that allowed us to give life to Alboro, the seed. But what we're introducing today isn't just a sophisticated microchip with a long-term memory, but the first invention in human history gifted with natural intelligence. Because of its fiber network, Alboro connects directly to the soil, which enables the device to have unlimited autonomy. In other words, Alboro never needs to be charged. All this technology is enclosed in an ultra-resistant, eco-friendly, waterproof body, the Cortex. But surprises don't end here. Thanks to its innovative photosynthetic chlorophyll system, Alboro is the most evolved device on the planet able to produce oxygen, which allows us to breathe. Additionally, Alboro disposes of a wide range of functions, such as immobility, thanks to which taking your pictures has never been so easy. Fruit delivery, that delivers fresh, bio fruit directly to your hands. And ombra, that allows you to discover a new and enthusiastic way of living in the fresh air without getting blinded by the sun. Moreover, Alboro comes in a variety of different models and configurations that vary in design, color, and fragrances. But allow me to state that Alboro is a lot more than a hyper-technological device of the latest generation. Alboro is oxygen, produced at zero cost and all around you. This extraordinary feature offers you the most realistic experience that has ever been designed before. Life. Explore this opportunity with us. The opportunity di non far estinguere questa razza umana maledetta che siamo. Ecco che cosa dobbiamo esplorare. Cioè noi siamo arrivati al punto che dobbiamo vendere gli alberi alle persone facendo finta di essere americani, così questi si pensano che sono fighi gli alberi. Ma che sono fighi? Cioè, gli alberi sono la natura, certo che sono fighi! Eccoci qua, vi è piaciuto? Benissimo! Mi fa sempre ridere a me la parte finale, mi fa proprio sì. Però appunto sì, quella non la commenteremo, io direi di non commentare. Cioè quella si capisce, esatto. Da sola. Va bene così. Si commenta abbastanza da sola, sì. Sì, sì, penso anch'io. Quindi, allora, facciamo un po' così, che tipo si parte dalla parte inglese e magari a volte si ridice anche, soprattutto se è importante, vi si rilegge, semmai così poi si traduce o comunque vabbè, si commenta e si capisce. Niente, da cosa parte sto video? Beh, intanto dice Welcome to Freedom Christmas Event, quindi vabbè, siamo quasi in tema, no? Cioè, Natale è finito da poco, però ci siamo. Ci fa comodo dire questa cosa, ci fa comodissimo, esatto, perché poi dopo nella seconda parte sì, vi propineremo un argomento riguardo al Natale, giusto per ricordarvi tutti i cenoni e i pranzoni appena finiti, esatto, che forse avete finito di digerire, ma non lo sappiamo. Forse no. Forse ancora no. Quindi niente, Christmas event, bene. Quindi inizia, ha fatto tutto sto mega discorsone, poi purtroppo il video non lo vedevate, mi dispiace, però... Quindi, vabbè, cambierà la vita delle persone, un evento incredibile, fantastico. Quindi, today we will introduce you to our greatest high-tech innovation, which is going to reshape your lifestyle forever. Fantastico, va bene. Quindi quello che mi faceva evidenziare da questa parte era la parola high tech, quindi alta tecnologia. Cioè vi introdurremo questa grandissima innovazione ad alta tecnologia che vi cambierà la vita. Ovviamente, come voi sapete, noi di Nervature parliamo di piante, quindi questa high tech si riferisce appunto alle piante, infatti poi nel commento seguente del video lo capirete, spero, bene. E davvero fidatevi, è proprio alta tecnologia, cioè se si cambia un po' il punto di vista le piante fanno cose pazzesche. Quindi niente, passiamo al pezzettino dopo invece, se ce lo vuoi leggere te, Sissi. Sì, lo leggo. Allora, in pratica qui cominciano introducendoci Albero. Our team of microengineers has developed an innovative biotech processor that allows us to give life to Albero, the seed. Infatti, pazzesco, no? Questo albero viene fuori dal seme, the seed. E tra l'altro c'è un bel parallelismo qui, secondo me, perché appunto avvicina il seme con il biotech processor, quindi col processore, e effettivamente il seme è un po' un processore, perché ha immagazzinate dentro una serie di informazioni, ma immagazzinate nel vero senso della parola, cioè che in uno spazio tra l'altro piccolissimo c'è tanta roba scritta dentro, talmente tanta che da un seme viene fuori una pianta intera, no? Vabbè, questo si sa. Quindi c'è tutte queste informazioni messe già dentro e queste qui li faranno fare tutta una serie di cose. Quindi si parte dalla germinazione, del seme, e anche lì infatti poi vi diremo bene magari un po' quando, come, perché. Aspetta, ok. Ok, e poi anche dopo, quindi una volta germinato il seme, invece c'è tutta la crescita della pianta. Quindi anche quelle lì sono, fa parte di tutte le informazioni, come si dice, tutte le informazioni immagazzinate comunque dentro il seme. È un po' come appunto un processore, quindi un computer, i processori stanno nei computer. Infatti problemi tecnici sì, no, scusate. Quindi tutte queste informazioni sono dovute cioè verranno fuori da questo piccolo seme grazie a degli stimoli che provocheranno certe reazioni. Questi stimoli possono essere vari, ad esempio la temperatura, un'umidità, un certo periodo di tempo che deve trascorrere, in generale, insomma, anche che andranno poi a stimolare quindi l'embrione, questo piccolo esserino che è dentro il nostro seme, che inizierà mano a mano a utilizzare le riserve nutritive all'interno del seme in specifiche parti, che possono essere cotiledoni o endosperma o varie altre, insomma, queste principalmente. E piano piano crescerà facendo sbucare prima la piccola radice, detta radichetta, e poi la parte aerea, plumola della plantula. E quindi tutto questo quindi è dato grazie, appunto, come si diceva, a fattori esterni, e accadono anche cose, diciamo, particolari, soprattutto per quanto riguarda quelli dormienti, quindi che devono appunto far passare del tempo prima di germinare, alle quali serve ad esempio certe volte di essere digeriti dagli animali prima di poter nascere e sbucare, per avere una maggiore diffusione, oppure aspettare una pioggia, quindi avere dei periodi dove ci sia la sicurezza che in quel momento c'è acqua, ad esempio se sono semi che devono germinare nel deserto. E altri semi tra l'altro aspettano anni, esatto. Letteralmente anni, incredibile. Sembrano morti, invece sono sempre lì. O appunto anche un calore intenso dell'incendio, o luce, quindi se magari si trovano nel sottobosco hanno bisogno che la copertura venga a mancare, diciamo, quindi non so, per la caduta di un albero o altre cose. E quindi vari piccoli elementi che permettono al seme di appunto tirare fuori le proprie informazioni. Beh, sì, e quindi un po' come ci ha detto ora Zazie, un po' come ci è stato detto anche nel video, quello che ci viene introdotto, quindi il seme, non è solo una struttura come un microchip, non è solo una struttura con una memoria a lungo termine, ma è the first invention in human history gifted with natural intelligence. Quindi parliamo proprio di un'intelligenza naturale. E come intelligenza naturale possiamo vedere che queste strutture possono fare diversissime cose e possono essere considerate innanzitutto come un microchip. E appunto il microchip, questo altro elemento tecnologico, è appunto un processore racchiuso in uno spazio, volendo, anche molto piccolo. Quindi, tornando al seme, un seme può essere ad esempio grande quanto un millimetro e dare vita a un'insalata, o di pochi millimetri e dare vita a un intero albero. E tutto questo, ovviamente, non bisogna però confondere il frutto che contiene il seme, perché ci sono appunto dei frutti magari più legnosi, ma che racchiudono all'interno il seme, quindi è una struttura ancora più piccola. E come abbiamo visto, quindi, questi piccoli semi sono piccoli microchip che riusano e sfruttano tutte queste energie e risorse che gli vengono date dalla pianta madre finché non diventano autonomi. Ma i microchip veri e propri, invece, per essere riutilizzati sono ben lontani da un uso sostenibile delle risorse. Ovviamente non è colpa loro, ma dai metodi di fabbricazione. Quindi non vado oltre su questo argomento, se siete curiosi potete approfondire l'argomento e vi consiglio di ascoltare sempre su Wombat la puntata di Lovelace, La crisi dei chip, e quindi lì potete trovare tutte le informazioni e continuare anche voi a questo paragone e arrivare a vostre conclusioni, insomma. L'altro concetto è appunto anche la long term memory, si riferisce proprio al fatto che questo seme porta in sé l'informazione genetica e ha memoria lui stesso di cosa è stato e di cosa sarà. Quindi oltre a pensare di immagazzinare tutte queste informazioni e anche conoscenze, probabilmente la pianta le mantiene al suo interno, le ritrasferisce a quella che è la sua prole, e in questa maniera probabilmente impara, e chissà, questa forse può portare anche all'evoluzione. Quindi in un certo senso stiamo proprio parlando di natural intelligence, quindi di vera e propria intelligenza naturale. Quindi se ci pensiamo non c'è da stupirci in realtà, perché l'albero, questa struttura, l'albero, il seme, ha delle capacità veramente superbe e spesso stupisce anche per quello che è in grado di fare. Se ci pensate, a partire dalla sua fonte di nutrimento, quindi quando è alla ricerca di cibo, fa delle cose veramente pazzesche. Le radici sono in grado di percepire i gradienti di nutrienti nei terreni, sono in grado di captare l'acqua e di orientarsi nella sua direzione. Quindi non ci dobbiamo stupire sotto questo punto di vista, ma non fanno solo questo. Le radici e le piante, le porzioni aeree delle piante sono in grado di percepire la luce, di percepire la gravità e anche di riuscire a comunicare tra di loro, sia all'interno di una stessa pianta che tra piante differenti. Infatti ci sono dei recenti studi, ora sono molto vari e ancora non precisi, che però sono molto molto interessanti se vi volete informare, che si interessano a capire come le piante interagiscono e comunicano tra di loro, e lo fanno attraverso onde sonore che comunque le radici sono in grado di percepire. Quindi in un certo senso si può dire che gli alberi parlano tra di loro, e questo è in un certo senso un'indicazione di un'intelligenza che può essere diversa dalla nostra. E comunque a seconda dei punti di vista ci sono cose che possono sembrarci più normali, altre che invece possono sembrarci strane, che però vanno conosciute. E quindi, insomma, le piante sono intelligenti come noi, forse in modo diverso, però sono intelligenti a modo loro. E questa natural intelligence permette all'albero, quindi come viene citato nel video, allows albero to auto-generate its long structure. Quindi di generarsi una struttura allungata. Ma appunto, prima di dire qualcosa su questa struttura allungata, mandiamo un pezzo musicale che è stato scelto da diciamo una persona, una cantante della zona di Firenze, che vogliamo però rendere, aprire ancora di più al pubblico, anche se già lei ovviamente ha un bel pubblico, che quindi ci ha consigliato varie canzoni che speriamo vi piacciono. E ecco qui la prima, che che si chiama appunto Broken Bones di Kalio. Yes. Buon ascolto. Eccoci qua di nuovo. Allora, riprendiamo dalla struttura allungata, che serve ad appropriarsi di luce e di spazio. Una delle cose che gli alberi fanno a seguito di tutti i loro, diciamo, ragionamenti o stimoli chimici, che a seconda di come li possiamo chiamare. Infatti è tutto ciò che, diciamo, avviene all'interno di un albero, ma anche all'interno di noi, che a seguito di stimoli chimici inducono delle reazioni, anche qua. Nel caso delle piante si può parlare di ormoni. Di conosciuti ce ne sono 5, che sono le auxine, le gibberelline, citochinine, etilene e acido abscissico, questi nomoni. Non ve li richiederemo. No, esatto, potete scordarveli ora, tranquilli. E vengono li dimentichiamo anche noi. Sì, esatto. E questi, diciamo, vengono prodotti dalla pianta stessa in un determinato punto e poi agiscono nella pianta o in altre parti proprio per indurre specifiche reazioni e processi che possono cambiare, cioè le reazioni possono essere diverse in base anche alla parte nella quale questo ormone agisce, quindi anche questo è bello confusionario. Quindi tornando alla crescita, che cos'è, diciamo, questa crescita che comporta questa struttura allungata? È, diciamo, il risultato della divisione e distensione cellulare. Allora, divisione nel senso che quindi tante piccole celluline diventano tante di più, distensione che poi si ingrandiscono, diciamo, e questo porta alla crescita in lunghezza. E poi abbiamo invece la crescita anche in larghezza, che deriva dai cosiddetti cambi, che quindi permettono, diciamo, la circonferenza di aumentare, quella del tronco ad esempio, appunto degli alberi. E tutto questo, appunto, la lunghezza, comunque il fatto di crescere lunghezza, questa è la mia bolognese, parte dai germogli che poi diventano rami eccetera eccetera e dipendono quindi dalla specie, ovviamente dalle varie disponibilità dei nutrienti o di altre cose, anche dell'acqua, e appunto dall'equilibrio ormonale, perché alcuni ormoni rispetto ad altri sono più positivi per la crescita mentre altri la inibiscono. E inoltre, appunto, possiamo anche vedere come alcuni alberi mantengono, diciamo, l'apice dei nostri germogli come dominante, quello viene chiamato dominanza apicale, sempre a causa di vari ormoni eccetera, e altri un meno. Un esempio tra l'altro è l'abete. Esatto, e dopo, qua torna. Sì, ve lo rinominiamo anche dopo. Analizzeremo. Sì. L'abete, infatti, c'è tutta la sua forma è proprio un triangolo, infatti in quel senso crescita apicale, no? Che l'apice spinge di più verso l'alto. Esatto, esatto. Sì. Soprattutto questo è dato, diciamo, da uno degli ormoni che si diceva prima, che è l'auxina. Ma vabbè, diciamo che non vi intrattengo altro, con altro su questa parte, andiamo pure avanti. Nel video allora poi vediamo che prosegue spiegandoci anche che cos'è la fiber network di questo albero. Che è una struttura che, come viene detto, lo cito testualmente, connects directly the soil to the soil, which enables the device to have unlimited autonomy. In other words, albero never needs to be charged. Quindi ci dice in pratica che questa nuova tecnologia non avrà mai bisogno di essere ricaricata ed è perfettamente autonoma. Questo perché questa fiber network che viene citata si riferisce alla struttura a fibre che è individuata nel tronco, nei rami, ma che arriva anche fino ai rametti, ai piccioli e si inserisce fino dentro alle foglie. Quindi per fiber network non stiamo per forza facendo riferimento alla struttura fibrosa del legno, che quindi in pratica si riferisce al fatto che il legno è composto di cellulosa, di cellule, che poi sono quindi vanno a formare una struttura a fibre nel legno, ma noi non parliamo di questo. Parliamo del tessuto vascolare delle piante, cioè quelle cellule che, come ha detto prima anche Zazzi, si differenziano, comunque cambiano nella loro forma e si allungano in un certo senso a formare diversi tipi di canali. Formano dei canali per trasportare i liquidi e i soluti e che comunque si sono organizzati all'interno della pianta in modo da formare quindi dei canali di trasporto. In generale i due tipi di canali che troviamo all'interno delle piante arboree sono l'oxilema, che serve in pratica a portare verso l'alto l'acqua e i nutrienti che arrivano dal suolo, quindi dall'apparato radicale fino a tutto il fusto, fino ai singoli rami, alle singole foglie, e poi c'è il floema, che invece ridistribuisce all'interno della pianta tutti quanti i nutrienti che sono dissolti nell'acqua. Quindi per esempio noi non abbiamo uno spostamento di liquidi solo dall'apparato radicale verso l'alto, ma poi i soluti si spostano anche da una parte della pianta all'altra in base a dove è più necessario, o comunque anche in alcuni casi vediamo che in autunno, quando le piante perdono le foglie, ritirano alcuni nutrienti dalle foglie stesse e li portano in altre parti delle piante, li riaccumulano, quindi riciclano anche le piante, sono innovative. E quindi la pianta prende dal basso acqua e nutrienti e li prende dal suolo, quindi la pianta è sempre connessa con il suolo. È per questo che è sempre giusto che il suolo abbia la giusta umidità, non sia privo di nutrienti e sia comunque adeguato alla pianta che poi noi avremo in una determinata porzione di suolo. In realtà non è proprio vero dire che la pianta avrà una carica infinita se la pianta non è inserita in un ambiente naturale, perché se è inserita in un ambiente fortemente compromesso, a meno che noi non inseriamo nuovamente nutrienti, acqua o quant'altro, bisogna un po', cioè, può essere difficile che la pianta abbia nutrienti infiniti. Comunque, perché in generale si dice in questo video che non ha bisogno di essere sostenuta o comunque è autonoma? Perché è un essere vivente, quindi si procura cibo da sola, cresce, si rifornisce e a volte riposa, in inverno alcune piante riposano, esattamente come facciamo noi. Esatto. Quindi, proprio così. Sì. È proprio così, a me sembra veramente incredibile tutte le volte che si fa questo tipo di ragionamenti, sarà che sono infognata io, però spero che anche a qualcuno di voi ascoltatori affascinino questi argomenti. Prima di continuare magari mandiamo un pezzo, e il pezzo è Giovani che scalpitano a letto di Jamila. Eccola. E questa Jamila, appunto, questa ragazza di cui vi accennavamo prima, fiorentina, è una nostra conoscenza, appunto, e è una cantante secondo noi molto molto brava, davvero emergente, quindi ci è venuta in mente questa idea, diciamo, di mettere le sue canzoni, alcune delle sue canzoni oggi, non saranno tutte sue, infatti quella di prima non era sua, no? E, comunque, per così un po' sponsorizzarla, e quindi speriamo che vi piaccia. Anche perché siamo delle grandi fan. Sì. Ciao Jamila. Siamo giovani che scalpitano a letto, mangiamo in velletà e non ci sfiora mai il sospetto di quel che fin qui è stato detto. Con quanta agilità ci ritroviamo giù al parchetto, è sempre il solito l'effetto di questa assurdità di non capire ciò che sento, e nel frattempo mi lamento passando coi miei fra, sempre il solito tormento. Troviamo giù al parchetto, è sempre il solito l'effetto. questa assurdità di non capire ciò che sento, e nel frattempo mi lamento, passando qui mi fa sempre il solito tormento. Benissimo, eccovi ritornati in studio, complimenti a Jamila con la sua voce eccezionale. Per chi si fosse collegato ora, noi siamo delle ragazze che siamo appartenenti a questa trasmissione che stiamo cercando di fare, Le Rubature. Qui parlano Palù, Sissi, Addu e Zazì. Stiamo facendo tutta questa puntata sulla base di un video, più che altro un audio, visto che c'è stato il radio, che parla appunto di questo fantomatico albero, un nuovo device molto importante, super tecnologico, che in realtà è totalmente naturale. Abbiamo parlato di struttura allungata, del suo microchip, ovvero del seed, del seme, e parliamo anche di come da questo seme si va alla plantula, si va a una pianta un po' più grande e finalmente a una struttura bella solida, bella allungata, come ha detto la nostra zanzitrina. Ma come si cresce in altezza, si cresce anche in larghezza, come sappiamo bene in quest'ultimo periodo, come che abbiamo mangiato pandori, panettoni e via dicendo, cenoni su cenoni. Parliamo quindi dell'accrescimento in larghezza, ovvero della corteccia. La corteccia è quella cosa che, diciamo, racchiude l'albero, detta malissimo, però è la sua funzione principale. In realtà la corteccia è presente soltanto nelle parti cosiddette legnose, ovvero le radici, il fusto, le branche, rami e rametti, quindi sono ovviamente esclusi foglie, fiori e frutti. Rifacendosi al video che abbiamo ascoltato prima, proprio così. Esatto. Si danno delle specifiche, degli specifici aggettivi, ovvero la corteccia è ultra resistant, eco-friendly, waterproof body, the cortex. Ovvero è questo aggettivo ultra resistente, perché la corteccia infatti serve proprio a proteggere i tessuti più sensibili dell'albero, sia da danni meccanici sia da patogeni esterni, che possono essere funghi, microorganismi oppure anche insetti. Questa corteccia, diciamo, è quella che da bambini si scortica il povero ramo, il povero tronco. In realtà, diciamo, è a seconda dell'età dell'albero che si va a prendere in considerazione, si hanno diversi tipi di corteccia. Ad esempio, gli individui più giovani solitamente hanno una corteccia molto più liscia rispetto a degli individui più adulti che si trovano alla maturità. Questo perché con il passare del tempo, come ha già citato prima Zazì, si ha questa crescita dovuti ai cosiddetti cambi, chiamati così nel nostro nei termini tecnici. Il cambio che permette la crescita in larghezza è il cosiddetto cambio sugherofellodermico. Ma senti che nomoni! Ma in realtà è molto più semplice di quanto si pensi, ovvero questo cambio permette l'aggiunta di materiale, e questo materiale, diciamo, aumenta la circonferenza, il diametro del ramo e del ramo come del tronco, e con il tempo questa corteccia diventa sempre più fessurata, è come se stesse anche un po' stretta a volte all'albero. E in questa maniera si formano delle scalanature, diciamo, anche dai colori molto particolari, molto pregevoli. Cioè, tutti noi abbiamo visto, ad esempio, che ne so, un pino domestico con queste belle corteccione tutte scalate, tutte rosse, arancioni dentro. Quindi, esempi, diciamo, di cortecce famose, le gastar delle cortecce, sono ad esempio la corteccia della sughera, dalla quale, la cosiddetta sughera, che in realtà ha il suo bel nome latino altisonante, perché come abbiamo detto, il latino ci piace, sì, ma non troppo, quercus suber. Quindi, che dire, ad esempio, non solo dall'età dipende questa struttura particolare, ovvero la corteccia, ma anche dalla pianta stessa, dalla specie. Abbiamo citato ora la sughera, che ha questo bella corteccia, bella, dalla quale ci si forma appunto i tappi e tutto quanto, ma possiamo anche citare la betulla, non so se la conoscete, è una corteccia molto fine, è particolarmente bella perché rende tutto il fusto bianco con delle fessure nere, e è divertentissimo, vi giuro, ma non lo fate perché fa male alla pianta, sfogliare la corteccia di betulla. È una meraviglia, è un antistress naturale che però danneggia un sacco la povera betulla. Quindi, bello, ma non lo fate. E... da fare una volta nella vita, insomma, una volta non danneggia e poi basta. Esatto. E un altro termine con cui viene definita di nuovo questa corteccia è eco-friendly. O come mai sarà eco-friendly? Vabbè, qui non commentiamo, cioè è un albero. Se non è eco-friendly l'albero, non so chi lo può essere. E infine, body, impermeabile. La corteccia sembra strano, perché questo potrebbe essere un organo apparentemente poroso, molto poroso, in realtà non permette, diciamo con una certa tolleranza, di far entrare o uscire acqua, quindi non permette di, che ne so, un'elevata traspirazione da parte della pianta nei giorni caldi, di far uscire l'acqua, che in realtà è essenziale per la pianta, oppure di far entrare l'acqua dall'esterno, che ne so, una pioggia abbondante magari, dell'acqua ristagna su un pezzo di corteccia, se non ci fosse questa corteccia si marcirebbe un po' l'albero e quindi è un problema, perché il marciume oppure la mancanza di corteccia diciamo permette più facilmente l'ingresso di agenti patogeni. Quindi la corteccia, ripetiamolo tutti insieme, è la primaria difesa dell'albero. Esatto. Comunque, possiamo andare avanti? Sì, perché sembrerà strano, ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, come ci diceva il simpatico signore del video, la pianta, thanks to its innovative photosynthetic chlorophyll system, albero is the most evolved device on the planet, able to produce oxygen, which allows us to breathe. Eh già ragazzi, la fotosintesi non è roba da poco. Davvero, gli alberi ci permettono di respirare, cioè è incredibile. Non lo sapevate, vero? Che grande segreto vi abbiamo rivelato. No, ovviamente si sa, chiaramente, poi adesso con tutte le tematiche dell'ecologia, vabbè, ovviamente si sa. Però insomma, sicuramente qualcosa in più si può aggiungere all'argomento, ecco. Qua, allora, innanzitutto qui dice un sistema innovativo. C'ho qualcosa da ridire. Non è propriamente innovativo, nel senso, non nel caso delle piante. Infatti le piante non sono le prime che hanno iniziato a fare fotosintesi. Cioè, se voi vi immaginate, non so quante più milioni di anni fa, che non c'erano piante, c'erano comunque organismi, ma molti pochi. E nell'atmosfera, quella che appunto l'atmosfera è la parte di gas intorno a noi che racchiude tutta la Terra, non c'era ossigeno. Quindi noi intanto per forza non ci c'era, ma comunque anche tanti animali non ci potevano essere, cioè la biodiversità era diversa, ridotta, eccetera. A una certa però ha iniziato a esserci l'ossigeno nell'atmosfera, e quando si sono iniziati a differenziare dei cosiddetti microorganismi, ovvero organismi molto piccoli, semplicemente, che fossero in grado di fare fotosintesi. E si parla appunto di cianobatteri e microalghe. Cianobatteri sono un tipo di batteri, microalghe sono microalghe. E quindi niente, ha iniziato a produrre ossigeno grazie a processi di fotosintesi che non staremo più di tanto a spiegare, vabbè, è complesso comunque. Fondamentalmente è un processo che loro facevano e fanno tuttora, perché questi microrganismi esistono tuttora e sono anzi molto fondamentali, poi ve lo ridirò dopo. Scusate un attimo. Problemi tecnici. Sì, problemi tecnici. Tutto questo dovuto dal fatto che due ragazze sono in studio, sì. Altre due in differita, tutto un casotto, ma va bene così. Davvero, infatti scusate. Infatti tra l'altro ci stavano dicendo prima che alcuni audio di alcuni di noi non si sentono molto bene e ci scusiamo molto, però ci tenevamo a fare la puntata tutte insieme, quindi due sono appunto online e magari loro a volte si sentono un po' peggio, però speriamo che comunque si capisca il più possibile. Ecco, ci dicono, c'è uno dei cavi del microfono che scoppietta. Vabbè. Quindi comunque, è importante, dicevamo, la qualità delle informazioni. Infatti, assolutamente. Quindi dicevamo che questi microrganismi producono la fotosintesi perché fanno la fotosintesi, scusate, perché è un processo che a loro fa comodo, perché li fa produrre energia. Quindi ovviamente non è che lo fanno per noi o per l'ambiente di produrre ossigeno, ma in realtà è un effetto collaterale, cioè l'ossigeno è un prodotto di scarto della fotosintesi. Comunque, il fatto che poi si è iniziato a fare fotosintesi e quindi che ci fosse ossigeno nell'atmosfera ha fatto sì che la biodiversità cambiasse e quindi da lì in poi iniziarono a svilupparsi quelle che poi sono le piante e si sono evolute come piante. Quindi da quel momento lì anche loro facevano fotosintesi e quindi la concentrazione di ossigeno in atmosfera è ulteriormente aumentata. E questo ha permesso infatti anche l'esistere di altri tipi di organismi come gli animali, insomma, che hanno bisogno di ossigeno come noi anche. Ok, perché vi parlavo delle microalghe in particolare? Perché vi ho detto che esistono anche adesso, anche oggi, le microalghe, e in realtà la loro fotosintesi produce il 50%, ed è veramente tanto, dell'ossigeno che abbiamo in atmosfera. Quindi i microalghe sono questi esserini minuscoli che ne sono presenti a migliaia, a milionate, a miliardate, insomma, in tutti ambienti umidi, quindi fiumi, laghi, mari, eccetera. Quindi un piccolo accenno su che cos'è la fotosintesi, appunto non nel dettaglio, perché è complessa, però è quel processo che usa l'energia luminosa del sole, quindi la radiazione solare, per eccitare delle molecole che tra l'altro sono la clorofilla, che magari avete già sentito nominare, no? La clorofilla si trova all'interno delle piante, è quella che dà il colore verde. Quindi la radiazione solare eccita la clorofilla e da lì parte tutto un processo di eccitazione, ma si chiama proprio così, c'è un termine scientifico, ovvero di aumento di energia degli atomi, diciamo, all'interno di alcune cellule, delle cellule vegetali, insomma. Questo aumento di energia fa sì che possano essere possibili tutta una serie di altri processi che, come vi ho detto, poi servono alla produzione per la pianta di energia, e sotto forma spesso di ATP o di zuccheri, carboidrati, insomma, che sono delle molecole organiche che poi sono un po' la riserva di energia. Durante tutto questo processo, però, un'altra cosa che ci interessa molto è che viene mangiata CO2 e viene riemesso ossigeno, appunto ossigeno prodotto di scarto, come si è detto prima. La CO2 invece è quella fonte di carbonio, quindi C è l'elemento del carbonio per le piante, e il quale è assolutamente fondamentale perché è l'elemento fondamentale appunto della sostanza organica, quindi delle nuove cellule della pianta, ma anche, cioè, di tutta la sostanza organica, quindi di qualsiasi essere vivente, insomma. E quindi a noi fa particolarmente comodo, come sappiamo, questo fatto proprio perché viene mangiata CO2 che, come sappiamo, è un gas serra da riscaldamento globale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo fatto che le piante riescono a procurarsi il carbonio da una dalla fonte di quella che è la CO2 è in realtà pazzesco, secondo me, perché la CO2 è un tipo di composto inorganico e quindi soltanto gli organismi che fanno la fotosintesi riescono a prendere a usare una fonte inorganica di carbonio, mentre invece noi gli animali, eccetera, si usa fonti organiche. Praticamente noi abbiamo la vita semplificata perché prendiamo delle sostanze già fatte, già assemblate, mettiamola così, da qualcun altro, in sostanze complesse che già possono essere usate in quanto mattoncini per costruire tutto il nostro corpo, le nostre cellule, quindi. E quindi abbiamo la vita semplificata e ce l'abbiamo noi e tutti gli altri animali grazie proprio alle piante, che invece la prendono l'atmosfera e la mettono, la trasformano in sostanza organica. Quindi da un lato in effetti loro sono più avvantaggiate di noi, perché se noi non avessimo tutte queste molecole pronte non andremmo molto lontani, insomma. Già. Grazie piante. Sì, l'ambiente, gli habitat sono tutti assolutamente fondamentalmente connessi. Magari sì, facciamo un altro stacchettino musicale? Sì, volentieri. Vai, vai. Sì. Allora. Chi mettiamo? Sì, vai. Manteniamo la scaletta proposta. E quindi direi Do It Right di Sweet Bundles. Sì. Buon ascolto. Right. time to do it right. Come on now. It takes just two times to do it right. Go on now. It takes three times to do it right. Oh, it takes four times to do it right. Eccoci tornate. Allora, abbiamo appena parlato di questa meravigliosa e fantastica cosa che è la fotosintesi, però la pianta, l'albero, non smetterà mai di stupirci e infatti, spero in un modo un po' ironico, ci viene detto nel video che additionally, albero disposes of a wide range of functions such as immobility, thanks to which taking pictures have never been so easy. Esatto, e che cos'è questa immobility? È esattamente appunto, quindi le piante non si possono muovere e questo anche forse ci torna un po' difficile da capire perché condiziona la quasi totalità degli eventi della vita della pianta ed anche della sua evoluzione. Infatti le diversità fondamentali che ci sono fra noi e le piante derivano in gran parte da questo fatto. Cose straordinarie che le piante sono in grado di fare derivano da questa impossibilità del movimento della totalità del corpo. È come se noi fossimo vivi, ma coi piedi cementati. Diciamo che appunto, quindi tutti i meccanismi che le piante poi hanno messo in atto proprio per questo è perché tengono conto del fatto di essere facilmente predate e non hanno concentrato in pochi organi le loro funzioni vitali come noi invece abbiamo fatto, diciamo col cervello, con il cuore, i polmoni eccetera, ma ha una struttura diffusa dove ogni cellula ha la capacità di svolgere più compiti, quindi non è una struttura verticale o centralizzata ma è molto più orizzontale e distribuita. Questo le permette di rigenerare anche dopo gravi asportazioni il proprio, diciamo, corpo, la propria struttura. Pensiamo ad esempio a un prato tosato che piano piano torna a crescere ogni volta. Noi invece, quando davanti a un attacco, a un cambiamento molto drastico, probabilmente saremo più tentati a fuggire. E le piante quindi hanno adottato questa strategia evolutiva proprio perché hanno questa capacità di comporsi in parti divisibili, in tanti piccoli moduli. Insomma, sono grandi architette o designer, si può dire. E nella pianta quindi non può essere nominata come un individuo, come qualcosa di non divisibile, come invece noi, diciamo, veniamo chiamati come esseri umani, ma è meglio definirla una colonia o una rete o, non lo so, un social network, se vogliamo tornare in questi temi un po' più tecnologici. Inoltre è bene evidenziare che in realtà, d'altro canto, le piante si muovono moltissimo, ma a modo loro. Ci sono tantissimi cosiddetti tropismi, che vuol dire, diciamo, mi volgo, cioè le piante si muovono in direzione sempre di qualcosa, che può essere la gravità, la luce o anche l'umidità, elementi nutritivi, altre sostanze o altri organismi. Quindi in realtà sono molto sensibili a tutto quello che le circonda e in base a questo lentamente, diciamo, si aggiustano e continuano a crescere e a modellarsi. Sì, poi si può dire anche che le piante spesso si muovono anche tra di loro, nel senso, un po' come noi hanno antipatie e simpatie, quindi si muovono anche un po' per distanziarsi da chi gli sta antipatico, ma quelle sono cose anche diverse. E ci viene anche detto comunque in questo video che la pianta, immobile com'è, è una grande fonte di cose per noi. Per esempio, ci viene citata la fruit delivery that delivers fresh bio fruit directly to our hands. Quindi ci viene recapitata nelle mani della fantastica frutta biologica. Eh sì, davvero. Biologica, si spera. Si spera che sia biologica, non è detto. E infatti questo è un fatto importante, ovviamente se pensiamo a tutta quella che è l'economia, ovviamente, perché quando si parla di alimentazione si parla anche di economia, perché se pensiamo che noi siamo 8 miliardi o quasi, non lo so, il fatto che le piante ci offrono un sacco di cibo è da tenere di conto, ovviamente. Quindi, quali parti della pianta, diciamo, possono essere cibo? Il primo che ci viene in mente sicuramente è la frutta, infatti qui anche nel video parla di fruit delivery, perché, non lo so, forse anche più romantica, vedi la mela rossa che pende dal ramo, non lo so, insomma, forse ci piace di più pensare a quello, in realtà usiamo un sacco di altre parti. Quindi le piante si basano sulla frutta, per l'appunto, per spargere i loro semi. Quindi dei semi abbiamo parlato prima, abbiamo detto che sono quelli che portano informazione genetica che produce la pianta madre per fare i figli, fondamentalmente, e i semi vengono racchiusi nei frutti. Quindi ovviamente sono una parte fondamentale per la pianta, perché appunto è grazie a quella che lei riesce a procreare. Quindi molti semi infatti hanno bisogno di passare per esempio da processi particolari, come si diceva anche prima, infatti anche prima si è accennato il fatto che molti devono essere mangiati e digeriti dagli animali, perché magari il loro involucro è troppo duro e non potrebbe germinare altrimenti. Esatto. Quindi sì, niente, nel processo di digestione ci sono degli acidi che appunto distruggono un po' questa corteccia e il seme poi può essere più morbido, diciamo, così che poi possa germinare. Oltretutto, se noi pensiamo per esempio agli uccelli, l'esempio più eclatante, i semi vengono anche trasportati lontano, quindi cioè, se ci si pensa è come se io lanciassi il mio figliolo tipo a 10 km di distanza, no? Cioè, assurdo. Però è anche un grande modo per cui le piante riescono a sopravvivere nell'evoluzione e oltretutto anche a evolversi, appunto, per riuscire a sopravvivere in ambienti diversi. Quindi questa è una cosa abbastanza incredibile. Quindi i frutti erano un esempio delle parti della pianta che vengono mangiate, ma non solo, no? Quindi per esempio si possono citare i fiori, di alcune piante si mangia anche i fiori di zucca li avrete fritti sicuramente qualche volta, i semi, che ne so, i semi di zucca, tra l'altro, sempre la zucca. Oh, la zucca l'avevo citata anche all'altra puntata, tra l'altro, infatti, mi piace la zucca. Lo stavo proprio per dire, è proprio il tuo elemento che porti avanti. Che vi devo dire, mi viene in mente quello. No, che ne so, anche i semi di chia, ma di girasole, non so, un sacco di cose. E poi, oltretutto, ovviamente le foglie vengono mangiate, a volte la corteccia, le radici anche. E le radici vengono usate, per esempio, mi viene in mente per fare estrazioni di alcuni oli essenziali, quindi un sacco di, diciamo, possibilità. Quindi veramente praticamente tutto della pianta può essere usato, a seconda della pianta, logicamente. Quindi praticamente un sacco di prodotti che noi usiamo, che l'uomo usa, vengono da... Madonna, scusate, ma di nuovo problemi tecnici, mi sa che sono io. Comunque, vengono appunto dalle piante, dalla natura. E quindi questo è un fatto veramente incredibile, perché noi umanità, uomo o donna, comunque umanità, ci sentiamo sempre al centro del mondo, siamo estremamente antropocentrici e tutto quello che abbiamo intorno ci sembra che sia stato creato da noi. Invece, tante volte non è così, magari viene trasformato da noi, sì, però la creazione, l'origine viene comunque spesso da una fonte naturale. In realtà sicuramente potremmo dire sempre da una fonte naturale, però magari c'è vari processi di trasformazione sono molto complicati, allora l'origine è un po' più lontana. Sicuramente il caso dell'alimentazione è molto vicina, comunque. Ma anche se pensiamo a altri tipi di prodotti, che sono per esempio prodotti curativi di bellezza, come accennavo prima, gli oli essenziali per esempio, anche per il profumo, oppure i trattamenti dei pesticidi che si usano in agricoltura, Oppure anche la gomma, per esempio, anche quella è una secrezione di alberi, questo materiale strano, insomma, che viene usato anche quello già. Oppure anche per fibre tessili, qui si riprende per esempio l'argomento della fibrosità del legno che Sissi ci parlava prima. E quindi niente, da qui ci viene da dire magari, oh wow, la natura è strafiga, no? Sì, effettivamente è così, cioè a volte ci se ne stupisce, a volte ce lo scordiamo, però bisogna veramente ringraziare, perché in realtà noi da soli non potremmo fare niente. E niente, questo è, scusate, un po' il pippone filosofico, però ci stava, secondo me. Da Addo ce lo dobbiamo aspettare, il pippone filosofico. Eccoci. No, non è una puntata di nervature. Sì. Ok, è questo. Io magari manderei un altro pezzettino. E direi che però sì. Forse manderei un altro brano di Jamila invece. E quindi mandiamo Frammenti. Buon ascolto. Mantiamo cronache autunnali. La sciarpa che si impregna di fumo, ma è più bello quando lo fa del tuo profumo. Io mantengo questa promessa fatta a nessuno. Parole che ridendo scriverò sul muro. Per scherno ho rinchiuso i pensieri in un'ampolla, ma è sbagliato, perché tutto ciò che provo poi ritorna. E ci ho provato a spiegare, ma è impossibile, non torna niente. Troppa libera interpretazione. E mentre io cresco fra i miei sbalzi di umore, lei gira di città in città in cerca di un colore che probabilmente io non posso darle. Il difficile delle passioni è coltivarle. E mille sono i soli, mille sono i venti, mille farò spenti sulle spiagge dei miei ricordi che riflettono sulle sue lenti. Ma tu Venere splendi di 100 sfumature, ed è dicendo il vero che mi hai rubato il cuore. Non sono menzogne, sono esercizi di stile. Smetti di essermi così ostile. E mi ricordo un saluto di sfuggita ed uno sguardo. Ricordo il tuo sorriso e il nostro primo ballo. Ma mi sono dimenticato come si fa a star lontani da un tale peccato. E mentre io cresco fra i miei sbalzi d'umore, lei gira di città in città in cerca di un colore che probabilmente io non posso darle. Il difficile delle passioni è coltivarle. Splendi di notte, splendi di giorno, rendi libero ogni tuo secondo. E quando provo a ridurti ad un sorriso, tu al mio cattivo gioco scegli di fare buon viso. Che non posso, è una costante nel vestito che indosso, ma non mi frenerà da cambiare le tonalità. Tu ridi, guarda, scherza, parla, la tua passione non frenarla. E se sei ancora in cerca di un bersaglio, sono in attesa di un tuo sguardo. Entro con i paradenti dentro questo guaio, e non importa cosa c'è nel mio bagaglio. Noi siamo fatti dalle cose che ci accadono, è un peccato guardar l'arte in faccia e dirle no. Benissimo, bentornati alla nostra trasmissione di Nervature. Dopo questo pezzo abbastanza struggente della nostra carissima Jamila, ritorniamo a parlare dell'audio, del video di cui abbiamo basato tutta la puntata di questa trasmissione, ovvero Nervature. Allora, abbiamo parlato di questo albero, di tutti i device che ci propone questo albero. Abbiamo appena finito ora di chiacchierare del fruit delivery dopo il pippozzo attaccato da Addo sulla filosofia della frutta e delle fibre tessili e di quanto l'uomo faccia schifo da solo senza la natura. Parliamo di un'altra grandissima funzione che fornisce l'albero, ovvero la nostra cara ombra. Ombra, come dice il video, allows you to discover a new and enthusiastic way of living on the fresh air without being by the sun. Ovvero si dice, con l'ombra, carissimo, te non viene accecato e fai bene d'estate con un bel po' d'aria fresca e non muori. Allora, l'ombra è abbastanza fondamentale e nel senso, uno può dire, vabbè, grazie, c'è qualsiasi cosa fa ombra, si è proiettata al sole, ma l'ombra, diciamo, del nostro carissimo albero ha il suo valore aggiunto, perché è fornita da un essere vivente, da qualcosa di naturale, e niente. Però, diciamo, a noi ci piace più l'ombra di un albero, l'ombra di un edificio, se no non saremmo una trasmissione che parla di natura, di progettazione del verde e di tutte le cose belle naturali. Ovviamente ci sono, ho detto, due tipi di ombra, quella più naturale, fornita dagli alberi e tutto quanto, e quella più urbanistica, ovvero legata alle infrastrutture. Nell'ambito del verde urbano, l'ombra è soprattutto data, cioè l'ombra data da un essere vegetale è fondamentale. Perché? Perché è importantissima per il benessere cittadino. In una città, con una grande, diciamo, densità abitativa, è una ragione da tenere di conto, perché come sappiamo tutti, quando a Firenze a giugno, luglio ci sono 38 gradi, non facciamo altro che cercare un po' di ombra fornita dai nostri cari alberi. Questo perché contribuisce al raffrescamento. Città, oggi mi viene città invece che città, niente, non ci si può fare. Comunque, diciamo che in questa maniera l'ombra fornita dagli alberi fa soffrire meno la città di quel fenomeno cosiddetto dell'isola di calore. Diciamo che poi ci sono altri benefici che la presenza di un albero porta in città. Ad esempio il fatto che non battano direttamente sul suolo. In questa maniera si crea un ambiente o un microclima diverso. Per esempio sarà più fresco, più umido, meno luminoso. E questo influenza il tipo di piante e simili che si potranno crescere. Sotto ad alcuni alberi, come possiamo fare un esempio di cipressi, conifere, come ad esempio il tasso, non cresce quasi nulla, perché essendo sempre verdi e con una chioma molto fitta non c'è abbastanza luce. Se invece siamo in un bosco, si vedranno tanti alberi sviluppati e belli alti, e al suolo invece tante piccole piantine, arbustini, piccole erbacee che in realtà non si vedono in campo aperto. Questo perché il sottobosco è un habitat con caratteristiche diverse rispetto al campo aperto. L'ombra, infatti, viene usata anche come, diciamo, un po'... è un po' subdola l'ombra, perché a volte viene utilizzata anche come un fattore di competizione. Alcune piante, crescendo, proiettano un'ombra che inibisce, sfavorisce la crescita di altre piante vicine. In questa maniera la pianta che svetta sulle altre, che inibisce la crescita di quelle più piccoline, ha più nutrienti, perché diciamo fa competizione con quelle più piccole. Ma ad adulta si parla, perché diciamo intorno a lei comunque ci sono altri alberi, soprattutto della sua specie. perché ad esempio se i semi cascano e non sono trasportati, come diceva prima Aldo, dal il piccolo uccellino che digerisce il seme e tutto quanto, se non vengono trasportati appunto cadono vicino alla pianta madre. E questo fatto questo fattore dell'ombra, che è un fattore di competizione e tutto quanto, non è, diciamo, molto favorevole all'evoluzione, perché se una pianta madre dice ah, io ho l'ombra, inibisco la crescita del mio figliolo, la pianta madre è un po' scema, cioè nel senso non è molto intelligente a livello di propagazione della prole. Ma le piante non sono così sciocche come pensiamo noi, anzi, per evitare che la competizione dell'ombra trasformi appunto questa pianta in una mamma stronza, in realtà si compensa con il fatto che gli alberi collegati, le piante adulte, usufruendo della rete fungina sotterranea, che è un network complessissimo di cui prima abbiamo accennato, passa i cosiddetti fotosintati, ogni tanto una parolina difficile dobbiamo metterla, se no, insomma, è una trasmissione di cultura, no, che, insomma. Ovvero sostanze già prodotte da lei, ovvero zuccheri principalmente, agli individui più piccoli della stessa specie e a volte sembra anche di altre specie. In queste maniere, oh, le vocali oggi partono, le doppie pure, niente. In questa maniera, la pianta madre permette la crescita della sua prole più piccolina e fa sì che il fattore ombra non sia troppo pericoloso per la competizione. Andiamo avanti citando il nostro video. Come abbiamo già parlato, magari nella corteccia di alcune cortecce hanno, alcuni alberi hanno una corteccia più fessurata, alcuni come la bellissima betulla hanno una corteccia tutta sottile da sfogliare. No, non è vero, non la sfogliate. Esistono anche in generale, come dice il video, molte varietà di albero. Citiamolo con un pessimo inglese. More of that albero comes in a variety, oddio, of different models and configuration that vary in design, colors and fragrance that allow me to state that albero is a lot more than a high technological device of the latest generation. Ovvero, per chi è scarso in inglese come me, si dice che l'albero si presenta in una moltitudine di varietà e di modelli, con tantissimi colori e fragranze, e ci permette di capire che non è solo un device tecnologico altamente funzionale delle ultime generazioni. Parliamo di questa grande parola, ovvero variety, ovvero varietà. Si riferisce all'enorme biodiversità delle specie vegetali, cioè probabilmente io, diciamo, lo accenno poco questo fattore dell'enorme biodiversità, perché probabilmente, cogliete questo mio coso, ci faremo una puntata forse sopra. Ho spaventato io, panico generale, no, scherzo. Vabbè, comunque è ovvio, lo vedete anche voi in città o comunque molto di più in campagna, che c'è una grande biodiversità di specie vegetali, e come sapete bene dalla nostra prima puntata si possono tutte classificare in un stupendo erbario. Ma cosa sarà un erbario? Noi l'abbiamo già detto, ascoltatevi la puntata, la prima puntata di Nervature. E vabbè, anche di qui, come abbiamo già detto, colori e fragrances, le piante, ovvero, vabbè, i colori è abbastanza palese, anche una sola pianta, le stagioni, diciamo, presenta più colori, diciamo, magari un bell'albero verde in estate diventa arancione, giallo, rosso in autunno, vabbè, questo è chiaro, ma anche fragranze. Le piante contribuiscono enormemente all'insieme di odori che ci circondano. Li usano anche spesso per attrarre animali, per esempio per far trasportare il polline, le conosciamo tutte le nostre amiche api, o i propri semi a giro, o anche per respingerli. Ma quindi, dette tutte queste cose, riassumendo, ci resta da dire che l'albero è una cosa straordinaria, che citando l'audio di questo divertente video ci viene detto che it offers you the most realistic experience that has ever been designed before, life. Perché sì, ci offre la possibilità di vivere, questo perché ci produce ossigeno a costo zero, quindi non ci costa niente, proprio perché, come è stato detto in precedenza, le piante sono esseri viventi che producono questo ossigeno che per loro è un prodotto di scarto, ma per noi invece è essenziale. Quindi sono piante, sono esseri viventi indipendenti che non chiedono permessi a nessuno per fare ciò che fanno o per essere dove sono, e ci sta anche che non si interessino nemmeno della vita delle altre specie, perché comunque la natura probabilmente è anche un po' meno imbrogliata di come pensiamo, magari semplicemente questi esseri viventi svolgono il loro ciclo vitale senza poi interessarsi di tutto quello che li circonda, o comunque semplicemente adattandosi a queste, alle loro circostanze, e semplicemente quindi vivono, e come conseguenza di questo loro vivere, permettono di vivere anche a noi. E questo video si conclude, o comunque una delle parti conclusive di questo video, è uno slogan sicuramente molto d'effetto, in cui ci viene detto che life is to share, life is to live. Quindi è sicuramente vero che la vita è da condividere, perché se non esistessero tutti gli organismi, le piante, i batteri e gli animali, non potremmo vivere noi, davvero. Sì, è proprio così. Si spera che, diciamo, con tutte queste chiacchiere, forse troppo complicate, non lo so, ma si spera che voi ascoltatori magari, non lo so, magari adesso vi rendete meglio conto che davvero noi da soli non potremmo fare niente di niente proprio. Quello che viene detto ecosistema è proprio un sistema di una serie di organismi, animali, vegetali, qualsiasi cosa, tutto insieme, tutto connesso, collegato, e veramente molto più collegato di quello che pensiamo, anche solo a livello fisico di vicinanza con altri organismi. Noi siamo a contatto con altri microorganismi, quello che la parolina vi ho tirato fuori anche prima, in realtà continuamente, cioè vivono anche nel nostro corpo, come vivono nel corpo delle piante, come vivono nel corpo di tutti gli altri animali, e grazie a loro e a tutte le tutti, diciamo, questi protagonisti, questi personaggi della vita, è effettivamente possibile appunto vivere nel mondo, no? Nell'universo, forse, magari esistono anche gli alieni, chi lo sa, quindi magari anche per che loro. Loro sono tutti connessi con il nostro ecosistema. Sì, sicuramente. Tutti insieme. Connessi non solo all'ecosistema, ma alla nostra trasmissione nervatore, bravissimi alieni. Che è giusto, bellissimo. Sono okay. Fra gli ascoltatori. A proposito di ascoltatori, vi ringraziamo un sacco per tutti gli iscrittini sul pad, che ci avete fatto molto ridere, davvero, e grazie tante. Speriamo davvero che, appunto, di farvi buona compagnia. Sono le 19.59. Esatto, e abbiamo più persone che devono andare in questo momento. Sì, oltretutto abbiamo un minuto per fare il secondo argomento, forse non ci basta. Quindi... No. Infatti noi vi avevamo promesso un secondo argomento, ma siccome vogliamo creare un po' di spazio, lo porteremo forse la prossima volta, e chi lo sa. Sì, prossima puntata vedrà. Forse. Ma sì, dai, potrebbe essere un'idea. Questo Natale continua, non si interromperà mai. Sì. Il lungo dell'anno. Esatto. Sì, magari facciamo una seconda puntata su Natale a giugno, non lo so, così. Vai, sì. Quando inizierà a mancare l'aria natalizia. Brava, esatto. Rientreremo. Beh, però se ci pensate, a giugno farà freddo da un'altra parte, quindi si può sempre tematizzare, infatti, no? Da qualche altra parte potrebbe essere Natale. Come dicevamo. Esatto, saremo già internazionali, quindi ce lo potremo permettere. Esatto. Certo. Bene, che dite, mandiamo un'ultima canzone? Sì, mi sembra un'ottima idea mandare un'ultima canzone. Di chi? Sempre magari un'ultima canzone di Jamila, così sì. Vi lasciamo con la sua voce. Esatto. Benissimo, allora noi salutiamo, un saluto da Palù. Un saluto da Sissi. Uno da Addu. E uno da Zazzi. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, buona serata! Okay. per le strade si aggira. Dicono sta in guardia, è un delinquente rapina. Ti incanta col suo sguardo, ti lascia senza scampo. Quando avrà finito sarà tardi, perché avrai niente ormai. In giro per le strade si aggira. Ha perso la sua anima e la colma in vita. Si vizia ad ogni costo, cercarti a più non posso. E dove più gli piace lo colora, sfoga il suo grande cuore. Così ruba, così inganna. È per sé che ha scelto il mondo, per sé che vive solo. Ma è anche lui un umano e si innamora, ma finisce con spazzar via le anime e colora solo la sua, la sua, la sua, la sua. Per sé che ha scelto il mondo, per sé che vive solo, ma finisce con spazzar via le anime e colora solo la sua. In giro per le strade si aggira, ha venduto la sua anima a una strega tanti anni fa. Ormai è legato al circo, costretto a restar zitto. Sulla sua verità e la sua natura, quindi questa è casa sua. Perché solo su una corda tesa o fra mille giocolieri riesce a esprimersi senza dare voce ai suoi pensieri. In giro per le strade disperato si aggira. Teme il suo segreto sia svelato dallo sguardo che si ritrova. Intriso di ogni pianto, pur colorato in fondo, ne conosce le doti e in un battito di ciglia lui ti avrà. Così ruba, così inganna. È per sé che ha scelto il mondo, per sé che vive solo, ma è anche lui un umano e si innamora, ma finisce con spazzar via le anime e colora solo la sua, la sua, la sua, la sua. Ma no, non gli è bastato ciò che manca appartenere, ma finisce con spazzar via le anime.